benvenuti alla giornata di inaugurazione di questa bellissima radio che ormai è diventata da due mesi abbondanti. Chissà se si sente, vogliamo fare un check. Ci conviene fare un check. E questo è il bello, perché non ti si sente. Tu hai detto? Proviamo. Perché abbiamo Vlad Scolari con noi e questo bellissimo pomeriggio in cui sta partendo tutto l'elenco che ho tra le mani, che è una notte scura. Adesso fino alle 7-8 circa ci saranno presentazioni di vari laboratori che vengono fatti con l'AM e una piccola pausa per una presentazione di un libro. Quando ci sei tu, il primo della lista è il dopolavoro, quindi io vi passo, perché sono solo per adesso, vi passo Vlad Scolari che vi racconta due cose su questo laboratorio che è tutto intorno a me, intorno a me. E non sono qui da solo, in realtà dopo lavoro c'è anche Luigi. Ciao a tutti. E insomma, ci piaceva, dopo 4 anni di teatro nato qui a ZAM, fare un attimo il punto della situazione, condividere. Guarderò sempre verso te. Allora, il dopolavoro nasce qua nel 2015, e nella primavera del 2015 c'è un primo risultato di un laboratorio che ho tenuto qua. Questo laboratorio è un'iniziativa di Tommaso Rossi, e è trasferita qui in periferia sud. È nato un laboratorio con 6 partecipanti di teatro. Abbiamo sviluppato un lavoro che parlava di periferia, delle distanze, profonde dell'anima. Da lì, l'anno dopo, il laboratorio si è raddoppiato a livello di partecipanti, è andato avanti e sono iniziate nuove avventure. Nel 2016 abbiamo fatto Cash, che era una riscrittura del Mercante di Venezia di Shakespeare, sempre diciamo in chiave di visione politica di un testo, di critica sociale, quindi adattandola alla società contemporanea. E questa è diciamo un po' la cifra che in modi anche diversi abbiamo portato avanti questi anni. Infatti poi diciamo l'anno un po' di svolta, il primo anno di svolta è stato il 2017, diciamo che il gruppo si era abbastanza consolidato, sono entrati nuovi elementi, quelli che restavano erano molto convinti, e si è iniziato a lavorare su una sceneggiatura mai girata di Pasolini, che è La Nebbiosa. Noi abbiamo scelto uno dei titoli che lui aveva scartato e quindi abbiamo ribattezzato il nostro spettacolo Polenta e Sangue. Anche qualcosa di particolare, cioè portare una sceneggiatura cinematografica in teatro, non è un'operazione che di solito si fa. E proprio quell'anno è arrivato anche Luigi con noi, un po' così curioso, e poi invece adesso si sta formando proprio come attore e vuole diventare attore professionista, quindi sta continuando la sua formazione anche al di là di questo luogo, che è un luogo sia per persone come lui ma anche per chi desidera avere un'attività di questo tipo ma che non diventi il centro della sua vita. Gli dico sempre che attore può essere assolutamente chiunque se ha una domanda da fare, qualche cosa da dire. Gente. E di Polenta e Sangue però voglio sentir parlare il nostro Luigi, perché io ne ho già parlato tantissimo. Ciao a tutti, io come diceva Vlad prima, sono stato uno di quei diciamo nuovi elementi che si sono inseriti un po' in corso d'opera in questa preparazione di Polente Sangue, che è stato alla fine, se posso dire, forse il primo vero spettacolo di questa compagnia, tanto è vero che proprio nella creazione, nella costruzione di questo spettacolo si è deciso di trasformare quello che era un laboratorio di teatro settimanale, un laboratorio di teatro settimanale che avevo incontrato appunto frequentando questo spazio e tutto un po' per hobby, in una piccola compagnia di periferia nata qui, che col nome appunto Dopolavoro Sfera. Ponente Sangue appunto era un testo che è un testo che parla di una banda di Teddy Boy, cioè una banda di ragazzate di periferia della Milano del primissimo boom economico, quando il boom economico non era ancora quasi partito, non era ancora i suoi massimi effetti, non si manifestavano ancora i suoi massimi effetti, però già iniziavano ad esserci appunto queste bande di teppistelli, di gente che veniva esclusa, nata nei quartieri di Metanopoli, quindi addirittura fuori da questi grattacieli terribili colati di cemento. E la cosa interessante che abbiamo subito trovato in questo testo però è la violenza, la crudezza con cui Pasolini si è rapportato alla loro storia e alle loro vicende. La storia parla di una notte di Capodanno di fuoco, la notte fra il 1959 e il 1960, data chiaramente comunque abbastanza emblematica per quel che riguarda la storia del nostro paese, e questa notte tra risse, feste, balli, botte, rock and roll, finisce in tragedia. Alla Pasolini, con il suo solito ottimismo e già con la sua gioia di vivere che sbronzava da tutti i pori. Quell'anno lì abbiamo anche poi reinstaurato i palchi aperti, che erano un'idea di Tommaso Russi, esatto, e quindi per un anno ogni mese c'è stato spettacolo. E che cos'erano i palchi aperti, Gigio? Ne parli tu? Beh, i palchi aperti in primis erano una sorta di palestra per noi, perché per noi comunque è stato molto utile il fatto di appunto passare da un tipo di lavoro appunto laboratoriale in cui per 8 mesi si prepara un testo con calma, parola per parola, analizzando tutto, con portati per mano in ogni scena, in ogni istante, all'invece metodo calcio nel culo e con 2 provette ogni mese sai che devi avere una serata comunque da gestirti. In più è un metodo anche per creare connessioni, creare rapporti e far vivere soprattutto questo spazio. Funzionava, mi hanno chiesto come funzionava, e funzionava in maniera molto semplice, cioè 2 ore di spettacolo inframmezzate da un 10 minuti di pausa, la prima oretta appunto palco aperto, i primi 7-8 artisti che ci scrivevano una mail al dopolavorostadera@gmail.com, ti ha formato bene Vlad comunque. Potevano esibirsi e abbiamo avuto un po' di tutto durante quell'anno, qualche teatrante, poeta, qualche cantautore, una volta sono venuti anche dei giocolieri, una volta un ballerino, qualsiasi cosa è ben accetta, e appunto un po' un banco di prova anche per chi vuole partecipare al palco aperto. Ogni volta però dopo il palco aperto abbiamo sempre fornito, diciamo, cioè fornito l'azienda di Stato no, abbiamo sempre restituito comunque una parte del nostro lavoro con dei piccoli spettacoli che non erano Polente Sangue, nel senso che non erano spettacoli da 1 ora e 20, così, però erano erano dei pezzi, esatto. E interessante anche il fatto che da quest'anno abbiamo deciso di iniziare a autogestirceli completamente questi palchi aperti, e quindi sono nate anche delle prime esperienze di regia da parte di persone come me, come Giosuè, che salutiamo, che regia non ne avevano mai fatta e si sono un po' sperimentati in questo, oppure anche in contesti di regia collettiva proprio dei partecipanti del dopolavoro, senza la guida di Vlad. Sì, è giusto quello che hai detto. Era proprio, cioè, una serata di varietà, di cabaret, certo, con una visione forse un po' di periferia, un po' underground, sincera, perché non c'era niente di costruito, è la verità. E poi è chiaro che dopo un po' che lavoravo con loro, fa parte, credo, almeno nel mio modo di vedere il teatro e la pedagogia teatrale, di lasciare poi ai ragazzi, agli allievi o quelli che, diciamo, circuitano intorno a un percorso di laboratorio teatrale come questo, di cominciare a scrivere loro, a mettere in scena, a fare, perché non tanto per un discorso di autonomia personale, ma anche di autonomia artistica, di esprimersi, e questo sono contento di essere riuscito a farlo, col grande dolore di ogni papà che vede per la prima volta il figlio tornare dopo mezzanotte. Ma sono felicissimo. E poi c'è stato un altro, cioè dopo Polenta e Sangue, l'anno dopo, perché all'interno di Resistenze abbiamo dedicato qualche serata al tema della resistenza, perché così ci aveva chiesto Zam, e quindi poi è nato Resistenze, lo spettacolo con cui abbiamo debuttato l'anno scorso e che abbiamo ripreso quest'anno. Prima di parlare di Resistenze un secondo, io parlerei, e poi passo di Resistenze, vi parla sempre Luigi, che lui è laureato, quindi parla bene delle cose, contenuti, spettacoli e via dicendo, più di me. Abbiamo incontrato il CETEC, il Centro Europeo Teatro e Carcere, diretto da Donatella Massimilla, che prima di tutto ci ha dato uno spazio prove, vero, perché qui a Zam ci trovavamo ovviamente benissimo a casa. Allo stesso tempo ci mancava corrente elettrica, ci mancava riscaldamento d'inverno, e quindi dopo un po', quando il lavoro inizia a farsi più serio e vuoi approfondire delle cose, anche le condizioni intorno a te hai bisogno che migliorino, altrimenti non riesci ad andare avanti. Se hai freddo, col corpo puoi lavorare ben poco. E lei ci ha concesso il suo spazio gratuitamente, perché crede anche lei nel passaggio di testimone, ci ha coinvolto in questa realtà che è il CETEC, che esiste da più di 30 anni e si occupa del teatro e carcere a San Vittore, ma anche a livello internazionale. Donatella Massimilla ha preso, tra l'altro quest'anno le hanno conferito il Lambrogino d'Oro, insomma è stato un grande incontro e un grande punto di svolta per noi, tanto che Resistenze ha debuttato all'Edge Festival l'anno scorso qui al Pacta dei Teatri. È stata la prima volta che il Dopolavoro Stadera è stata invitata in un teatro vero e proprio e non in spazi diversi a quelli a cui eravamo abituati. Questo è stato sicuramente un grande incontro, e anche delle collaborazioni di cui ci parlerà Gigio. Ci parla lui di Resistenze, allora, che tra l'altro il nostro buon Lorenzo qui presente ha filmato già due volte. Allora sì, Resistenze, diciamo che Se Polente Sangue è stato il nostro primo spettacolo, Resistenze è stata invece un passo ancora avanti, secondo me, anche a livello personale, di entrare dentro un lavoro, di viverlo veramente. È stata la nostra prima ricerca, cioè il nostro primo spettacolo però interamente costruito da noi, senza un Pasolini che ci portasse per mano nella costruzione dello spettacolo e del testo. Resistenza in verità è nato in questo posto, a Zam, perché non eravamo ancora, ci siamo sposati proprio quell'anno durante la costruzione di Resistenze, e è nato da un'assemblea in cui i ragazzi, i compagni di Zam, ci avevano chiesto di iniziare a lavorare, di iniziare a preparare per loro, visto che gli era piaciuto molto Polente Sangue l'anno prima, qualcosa sull'antifascismo e sulla resistenza. Ora, tutti noi, io per primo, che se la gente mi conosce sa che condivido valori antifascisti da sempre, ma io per primo ho avuto un po' il che palle, ma non tanto per il tema trattato quanto per la grossa paura di finire un po' nel didascalico, nel l'ipernoto di un partigiano Johnny, di un di un Elio Vittorini, uomini e no, che per carità testi sacrosanti, però che non ci avrebbero dato quella spinta che ci ha dato poi la condivisione di una nostra attrice della storia di suo nonno, che è stato partigiano, ha combattuto Armando Arpe, nome di battaglia italo, ha combattuto nei Monti Liguri in una brigata che si chiama Coduri. Quando abbiamo saputo questa cosa, nella ricerca di materiale, tra i vari Fenoglio, tra i vari Primo Levi, è spuntata anche questa testimonianza, ci siamo detti, cazzo, questo è abbastanza originale, è interessante ed è nostro, è molto personale. Quindi abbiamo iniziato questa ricerca, e la cosa anche interessante che ci ha appassionato è stata una ricerca veramente vissuta, perché non l'abbiamo fatta soltanto sui testi a casa o su Wikipedia, ma ci siamo recati a parlare con l'AMPI nel tentativo di incontrare qualche reduce di questa brigata, e ci è stato presentato il gentilissimo partigiano Ezio, 89 anni, a 15 anni era salito in montagna a fare la staffetta per la brigata, e molto contenti e allegri del fatto di vedere dei giovani in sede, visto che l'Ampi sappiamo che ha questo cancro da circa 20 anni della calvizie e dei capelli bianchi. Ci è andato un sacco di materiale, abbiamo trovato un sacco di testimonianze e poi un sacco anche proprio ci hanno raccontato anche non soltanto le vicende della brigata, ma anche com'erano questi partigiani, com'era Miro, com'era il comandante Virgola, com'era Italo, il nonno della nostra attrice. E niente, però anche in questa ricerca che abbiamo portato avanti anche durante i palchi aperti, li abbiamo sfruttati molto in questo senso. Poi abbiamo girato anche un po' per gli spazi sociali di Milano. Io mi ricordo che la testimonianza di Miro l'avevo recitata a Zip, che era un posto, nel senso l'abbiamo testato un po', però eravamo rimasti un po' nella dimensione anche lì della ricostruzione storica, filologica di una brigata. Interessante, bello, perché era completamente nostro, però sentivamo che mancava un riferimento all'oggi, un riferimento, un messaggio politico che potesse anche essere scomodo per alcuni e emozionante per altri. E con questo, e per questo motivo abbiamo inserito all'interno del abbiamo intermezzato queste vicende storiche della brigata Coduri con scene rivolte a evidenziare da un lato le cose brutte, cioè quelli che abbiamo chiamato i fascismi inconsapevoli di oggi, cioè il salviniano che non si rende neanche conto di quello che sta facendo con la sua testa bacata, però che è più fascio dei fasci di ieri, in verità, e manifesta una violenza verbale non veramente agghiacciante. Secondo me di resistenze adesso Gigio ricorda la bellissima esperienza che abbiamo vissuto poco tempo fa a Sestri Levante, che siamo stati invitati appunto dall'Anpi e da Ivan. E quello è, mi piace che lo ricordi, perché è un momento secondo me di vero teatro, perché è proprio incontro davvero. Abbiamo portato a casa una storia e parlane tu. Per me sì, il 23 aprile di quest'anno è stata una delle esperienze sul palcoscenico più emozionanti che abbia mai avuto, anche se era appunto una cosa abbastanza intima e poco magari importante dal punto di vista della grande data, eccetera, eccetera. Però è stata un'emozione fortissima per il fatto che appunto abbiamo portato questo nostro spettacolo davanti a loro, che ci avevano raccontato le vicende su cui poi abbiamo creato lo spettacolo. E cioè, l'emozione fortissima è stata appunto un reduce che è entrato in camerino, finito lo spettacolo, e ci ha detto cavolo, che era molto emozionato perché un rastrellamento che aveva raccontato, lui se l'era vissuto, aveva veramente rischiato la pelle in quel rastrellamento, e quindi era stato molto emozionato da vedere dei giovani che lo raccontavano. E la cosa anche che mi ha entusiasmato molto, quello che stavo cercando di dire prima, è che loro stessi, e questo mi ha fatto molto pensare, ci hanno detto che la scena che gli è piaciuta di più, molti di loro, non è stata quella in cui si raccontava di loro nonno o di un loro parente o di loro fratello per i più anziani, ma la scena delle resistenze contemporanee, cioè quando abbiamo letto, interpretato la testimonianza di Orso e di altri combattenti curdi, abbiamo trovato questa poesia sulla rivolta contro Mubarak di un giornalista egiziano che aveva partecipato, e loro erano molto colpiti da quello, perché hanno detto cavolo, noi la storia della Coduri la conosciamo a menadito e magari ok, uno spettacolo tutto incentrato su quello non l'avevamo mai visto, però letture di queste testimonianze così non siete stati certo i primi a proporcele. Però è stato forte perché è uno spettacolo, diciamo, che il cui obiettivo principale, forse più che far rivivere quella storia, per quanto noi ci siamo molto legati, è far pensare politicamente il pubblico. Beh, non so cosa dire, non saprei cosa aggiungere. Aggiungo che a questo, diciamo, viaggio tutti insieme si è unita anche Alice Protto, in arte Uli, che ha sempre curato la parte, diciamo, delle canzoni, perché ovviamente come in ogni lavoro teatrale a me piace inserire e regalare delle canzoni, quindi c'è stata anche una ricerca sulle canzoni partigiane. da Fischi al vento a Il bersagliere a cento penne, e anche la Badoglieide, che tra l'altro adesso Alice ha pure riscritto, quindi in chiave diciamo 2.0 la Salvineide, ma non la trasmettiamo perché siamo in silenzio elettorale. Possiamo cantarla. Potremmo fischiettarla, ma tanto ormai è un virale su, come si dice, su internet. E Mattia Pozzi, che ha curato un po' le parti di movimento, che è un mio collega e amico, diciamo più bravo di me a dare indicazioni per quel che riguarda il movimento corporeo, perché è un vero e proprio laboratorio di teatro. Si lavora sul corpo, si lavora sulle idee e sul messaggio soprattutto, e sullo scopo dei nostri lavori, che non sono mai a fine solo di spettacolo, ma hanno una direzione d'arte sociale e quindi di scopo pratico nella società. Questo diciamo che è un po' la cifra che ci contraddistingue. E poi soprattutto, vabbè, il buon vecchio Lorenzone, che qua fa il DJ, ci prova, dice, e che ci ha filmati più volte, è sempre stato vicino a noi, perché è importante ovviamente anche avere un supporto video di questi tempi, dove è tutto virtuale, sia come documentazione ma anche per farci conoscere, perché ci si rimprovera, vi basta poco perché volete farvi vedere. Sì, noi vogliamo farci vedere e vogliamo arrivare a tanti. Volevo aggiungere appunto due parole su questa cosa, ripescando un po' quello che è, secondo me, il filo portante di questo laboratorio, che è l'esperienza collettiva, ma soprattutto l'esperienza individuale. E io ho cominciato a filmare in concomitanza della nascita del Dopolavoro Stadera, quindi appunto abbiamo citato Cash, poi abbiamo citato Polente Sangue, abbiamo citato I Palchi Aperti, abbiamo citato Resistenze. Tutte queste cose sono state documentate in facere, mentre si provavano, e poi durante gli spettacoli. Quindi, se io ho iniziato ai tempi di Cash con una videocamera mediocre, assenza totale di microfoni e un'esperienza ridotta, mi sono ritrovato in questo momento a comprendere effettivamente che la strada che sto percorrendo nel documentario di osservazione si attua quando si fa parte di un gruppo. Nel momento in cui un operatore entra in un contesto dove non è conosciuto, avrà gli occhi addosso sempre, ma se passa del tempo le persone che va a filmare si abituano alla sua presenza, lì esce la spontaneità, esce la realtà, che è quella che si cerca nel documentario. Così ragionano i più grandi, così ragiona Weisman, in cui si ferma 6 mesi in un posto per farsi abituare dal posto stesso e diventare invisibile. E questo l'ho colto arrivati alle prove di Resistenza, perché il trailer delle prove, quindi il trailer del lancio dello spettacolo della prima, è uno di quelli che secondo me è venuto meglio. A livello di montaggio molto, molto bello, però se vedesse le riprese come se fosse un documentario, e paragonando le riprese delle prove di Cash piuttosto che delle prove anche di Polente Sangue, notereste la differenza di loro nei miei confronti, nei confronti di come trattano la videocamera. E volevo solo dire questa cosa qua. Sì, perché è un luogo dove si lavora insieme e si cresce anche insieme, quindi andando avanti è un percorso. Quando ho conosciuto Luigi non era così, e neanche tu, Lorenzo, eri così, e nemmeno io assolutamente, seppur dovendo mettermi un po' al timone, diciamo, della cosa. Però nel frattempo si cambia, si cresce, e non bisogna neanche diciamo prendersela troppo per degli eccessivi cambiamenti, ma accettare che c'è chi viene, c'è chi va, c'è chi ritorna, c'è chi non torna più. Com'è la vita, diciamo, è un percorso, e questo è molto bello, soprattutto perché è libero, è aperto. Io dico sempre che è aperto e appartato allo stesso tempo, e l'appartato è quello che diceva Lorenzo, cioè prendersi il tempo di fare le cose senza una data di scadenza prefissata, anche se poi a volte non è così, perché devi montare in fretta e furia una cosa. Però per i progetti importanti, quelli lunghi, che devono rimanere e sedimentare tanto, non solo nell'attore ma proprio nella persona, bisogna prendersi tanto tempo. E io ho uno spettacolo che ho fatto con Alice che è Verso un'altra fiamma sul giornalista Panaiti Strati. Abbiamo lavorato 10-11 mesi tra costruzione, prove, poi nessuno ci pagava, quindi provavamo nei nostri tempi liberi in città diverse, era complicato, però eravamo talmente contenti del messaggio, dei contenuti, talmente felici dei contenuti. Ah, ora ho capito che sento il mio eco e non capivo più niente. Ok, non ci faccio caso. Ero talmente felice di quel testo, di quei contenuti, del messaggio che aveva, che ci ha modificato come persone, nei nostri atteggiamenti e nelle nostre scelte politiche, anche nella vita, di comportamento. Questo deve fare il teatro, non deve essere solo spettacolo. Questa è l'idea che ne ho io. Vuoi aggiungere qualcosa, Luigi? Perché io me la sono cantata e suonata. Oppure direi che possiamo... Tra un po' c'è la presentazione del libro. Allora io direi, in occasione di questa inaugurazione, voglio dedicare una cosa che faccio oggi per la prima volta. L'ho scritta in questi giorni, perché ho la gamba ingessata e sto al computer poco quanto reggo, ma ho scritto. E ho scritto un testo che si intitola Qualcuno era fascista, e che è liberamente tratto da... ispirato più che tratto da Qualcuno era comunista di Giorgio Gaber. E ve lo dedico soprattutto a tutti i compagni di ZAM, e grazie per questi anni, ai miei ragazzi del dopolavoro Stadera, assolutamente, e a tutti gli antifascisti, e a quegli antifascisti che non lo sono ancora e lo diventeranno dopo questa lettura. Grazie, facciamo partire la traccia, Lore. Qualcuno era fascista perché anche lui era nato a Predappio. Qualcuno era fascista perché era un artista futurista. Qualcuno era fascista perché cantava giovinezza. Qualcuno era fascista perché rivoleva l'impero romano 2.0. Qualcuno era fascista perché Mussolini ha bonificato la Maremma, istituito l'INPS e costruito l'EUR. Qualcuno era fascista perché non conosceva Matteotti. Qualcuno era fascista, ma solo fino all'8 settembre, poi no. Qualcuno era fascista perché aveva paura. Qualcuno era fascista perché era obbediente. Qualcuno era fascista perché era ariano, qualcun altro perché era anticlericale, altri ancora perché erano dei patrioti. Qualcuno era fascista perché vendeva olio di ricino. Qualcuno era fascista perché in realtà era solo giovane, sprovveduto e rivoluzionario. Qualcuno era fascista perché glielo avevano detto e lui ci aveva creduto. Qualcuno era fascista perché se ne fregava. Qualcuno era fascista perché era un modo sano e utile per sfogare la rabbia, col manganello. Qualcuno era fascista perché D'Annunzio. Qualcuno era fascista perché in divisa piaceva alle donne. Qualcuno era fascista perché Mussolini era un padre severo. Qualcuno era fascista perché non aveva trovato un padre migliore. Qualcuno è ancora fascista e soffre da molto tempo di una romantica nostalgia politica. Qualcuno è fascista perché quando c'era lui. Qualcuno è fascista perché la Petacci non doveva essere appesa lì. Qualcuno è fascista perché Salvini è il miglior statista dopo Mussolini. Qualcuno è fascista perché la Meloni è della Garbatella. Qualcuno è fascista perché ha paura dei negri, dei Bangla, i China, i musulmani, i rumeni, di tutti. Qualcuno è fascista perché i migranti prendono 40 euro al giorno dallo Stato. Qualcuno è fascista perché abita vicino a un campo rom. Qualcuno è fascista perché abita vicino a una moschea ed è terrorizzato come in guerra a coprifuoco. Qualcuno è fascista perché non è razzista, però... Qualcuno è fascista perché il confino in realtà era una villeggiatura. Le camere a gas non sono mai esistite. Dai rubinetti usciva solo disinfettante perché ebrei, zingari, comunisti, anarchici, omosessuali, si sa, sono sporchi. Qualcuno è fascista perché Casa Pound gli regala un sacchetto della spesa. Qualcuno è fascista perché non ha mai letto Ezra Pound. Qualcuno è fascista perché lo è decore. Qualcuno è fascista perché non è comunista. Qualcuno è fascista perché una croce celtica tatuata sul braccio. Allora? Qualcuno è fascista perché non ha un amico sano che gli dica: ma che merda di tatuaggio ti vuoi fare? Tu stai male, vieni, vieni, andiamo al corteo del 25 aprile, ti racconto la storia della Brigata Coduri. Qualcuno è fascista perché non ha trovato amici migliori. Qualcuno è fascista perché è nato e vive in periferia. Qualcuno è fascista per onorare la memoria del padre. Qualcuno è fascista perché ha una merda di padre. Qualcuno è fascista perché qualcun altro gliel'ha permesso. Gli ha detto che è un'opinione come un'altra. Qualcuno è fascista perché lui è un uomo vero. Perché lui non è frocio. Perché nessuno pensi che lui è frocio. Qualcuno è fascista perché è meglio fascista che frocio. Decreto della duce Alessandra Unsolini. Qualcuno è fascista perché uno non ne può più di questi che non lavorano, di sti stracomunitari, uomosessuali, sti zingari. E a me che sono italiano, niente? Sei nomade? Devi nomadare. Decreto della duce Giorgia Meloni. Qualcuno è fascista perché migrante è un gerundio. Qualcuno è fascista perché è ordinato. Qualcuno è fascista perché se sei fascista è lecito essere anche maschilista. Qualcuno è fascista perché vuole solo essere armato. Non si sa mai. Qualcuno è fascista perché ha bisogno di un nemico contro il quale essere armato. Qualcuno è fascista perché in realtà la terra è piatta e il complotto giudaico-massonico rettiliano ha ingannato tutti. Qualcuno è fascista perché è un prete fascista e non c'è contraddizione. Amen. Qualcuno è fascista perché io l'ho insegnato anche al cane il saluto fascista. Oh. Qualcuno è fascista perché la sinistra si è dimenticato di lui e di lei. Qualcuno sarà fascista finché non conoscerà niente di meglio. Qualcuno sarà fascista perché non conoscerà più la storia. Qualcuno sarà fascista perché non voleva più essere schiavo del complotto gay, islamo, giudaico, massonico, rettiliano con supercazzola prematurata come se fosse Antani terapia tapioca. Qualcuno sarà fascista perché vorrà essere schiavo, ma di uno solo. Qualcuno sarà fascista perché non avrà più altro da scegliere. Qualcuno sarà fascista perché è bianco. Qualcuno perché glielo hanno detto. Qualcun altro perché a me i camerati hanno già detto tutto, tutto. Qualcuno sarà fascista perché avrà paura dei fascisti. Qualcuno sarà fascista perché non avrà mai sentito parlare un filosofo. Qualcuno sarà fascista perché Diego Fusaro sarà l'unico filosofo di cui ha mai sentito parlare. Qualcuno sarà fascista perché voleva solo essere parte di un gruppo. Qualcuno sarà fascista per non sentirsi solo. Qualcuno sarà fascista perché è italiano. Qualcun altro perché vuole essere italiano. Qualcuno sarà un fascista perché è un onore. Qualcuno sarà fascista perché vuole essere uomo o donna d'onore. Qualcuno sarà fascista perché uomini e donne non sono uguali. Qualcuno sarà fascista perché non c'era più nessuno in cui credere, ma loro c'erano. Qualcuno sarà fascista perché i padri portatori di valori veri si sono nascosti da più generazioni. E sarà fascista qualcuno perché non sopportava più la propria squallida esistenza di burocrazia, di lavoro, spesso lavoro nero. Qualcuno sarà fascista solo perché voleva una vita più dignitosa. Qualcuno sarà fascista perché c'era internet, così le informazioni vere finalmente circolavano. Qualcuno sarà fascista perché è come un derby, tifi per uno o l'altro squadrismo. Qualcuno sarà fascista e non saprà neanche il perché. E sarà colpa di tutti. Perché ci si è dimenticati di predicare valori fondamentali partendo dai luoghi del disagio. Si è preferito sviluppare invece che progredire. I salotti, i grandi teatri, i libri, i talk show, al posto delle tristi periferie, i dimenticati circoli, le trascurate, lise, grigie piazze oltre le mura borghesi del centro. Qualcuno sarà un fascista perché gli altri, quelli dell'altra squadra, non lo conoscono, non gli parlano, non lo frequentano. Qualcuno sarà un fascista perché altri si sono dimenticati di tramandargli altri valori, dandoli per scontati. E moriremo fascisti, se perderemo la memoria, se non resisteremo, sveglieremo, combatteremo, se non predicheremo, se non ameremo sacrificare il nostro personale benessere per un bene comune più grande e inestimabile, se non saremo felici solo quando lo sono anche gli altri, se perderemo la speranza e il coraggio, e se non ci sarà qualcuno che fascista non vuole morirci. E sconfitto tra i papaveri a maggio felice cadrà il nuovo partigiano che lotta per la libertà. E qualcuno, secondo me, qua anche tra di noi non è fascista, o perché ha un amico come me o perché ha un amico come Lorenzo Picarazzi, o perché ha un amico come Luigi Vittoria, o un amico come Gigi Rimini e tutto il collettivo ZAM. E qualcuno non è fascista perché c'è ancora bella gente come voi, signori. È stato molto bello, quasi come fare l'amore. Com'è andata la registrazione? Molto bene, dice il DJ. Bene, bene, bene. Fischi da sotto, come quelli del Papa, se no. Bella lì. Era un regalo che volevo farvi, perché ve l'ho meritato, siete state bambine buone. Raga, ho il microfono in mano da un quarto d'ora, cioè parlate voi. La traccia è finita perfettamente adesso. Si è proprio presi i tempi, bravo. Però ci stava la coda così, anche per la puntata. Quindi ringraziamo il dopolavoro che ha iniziato, ha battezzato l'inaugurazione di Radio ZAM. Noi andremo avanti tutto il pomeriggio. Adesso mettiamo un po' di musica a rotazione, magari raccontiamo di come abbiamo fatto per mettere su la nave. Parliamo di crowdfunding, ci occupiamo questa cosa qua che intanto giù da basso, poi quando saremo abbastanza settati faremo anche la filo diffusione totale. Giù da basso dovrebbe cominciare la presentazione di un libro per bimbi e per bimbe. E salutiamo tutti i compagni che giù stanno trafficando per preparare la cosa e andiamo avanti. Saluto tutti. Volevo soltanto ricordare che appunto il dopolavoro stadera è una comunità teatrale, come diceva Vlad prima, ma è importante ribadirlo, aperta a tutti e a chiunque voglia prendersi lo sbatti di fare un di i Ah, i contatti, la mail, è vero. Vabbè, seguiteci su Facebook, su Instagram, dopolavorostadera@gmail.com. E se no venite a trovarci appunto scrivendo se siete interessati a fare un lavoro del genere, teatrale e politico. Ciao a tutti, grazie Lorenzo, grazie Radio ZA. Ciao, ciao a tutti, lasciamo spazio a cose. Vediamo gente, facciamo cose. A tra poco. Quando ti sento andare a tempo con me, non so rinunciare, dimmi che non dovrò. Ogni tua visione mi fa stare bene.